Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci qui, buongiorno e benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, ringrazio Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, come sempre Laura Vanossi in redazione. Andiamo. Vertigini e acufeni, da soli o in combinata. Occhi, uno sguardo a prova d'età. Dal New England una riflessione sull'influenza messicana. Giramenti di testa, sbandamenti, vertigini, ma anche fischi e ronzii, senso di ovattamento. Oggi proprio non ci facciamo mancare nulla, come si dice, lo facciamo a ragion veduta, perché questi disturbi spesso si presentano insieme, come se uno preparasse la strada all'altra. Allora noi li descriveremo con precisione, cercheremo anche di individuare le possibili cause per suggerirvi come sempre il modo migliore per affrontarli. Il nostro motto come sempre è occuparsene per non preoccuparsi. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audio, vestibologia e rieducazione vestibolare dell'azienda USL di Modena. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Professor Guidetti, le vertigini rimandano all'equilibrio. Chi ne soffre sa bene come sia fastidioso avere l'impressione di stare fermo mentre il mondo intorno gira, o a trovarsi nella situazione opposta, a fare la trottola e mentre tutto il resto sta fermo. Mentre gli acufeni e i ronzii, come quindi acufeni vuol dire praticamente quelle sensazioni che avvertiamo all'interno dell'orecchio, ronzii, fischi, sibili, cascatelle, rimandano alla funzione uditiva, e un orecchio che fischia è un orecchio disturbato che fa più fatica, credo, a svolgere la sua funzione. Ma professore, come mai questi disturbi così diversi si manifestano insieme, quasi che uno fosse la conseguenza dell'altro? Diciamo che fanno tutti e due riferimento a due parti dello stesso organo, cioè il labirinto, la parte interna dell'orecchio, che è una specie di clessidra. In un'ampolla c'è la funzione dell'udito, nell'altra c'è la funzione dell'equilibrio, tra di loro connesse, e poi anche i nervi, cioè i fili che portano le informazioni appunto dalla zona dell'udito a quella dell'equilibrio, decorrono talmente stretti che formano un pacchetto unico che sale verso il cervello, quindi molto spesso la patologia dell'uno finisce per interessare anche l'altra zona. Professore, non vorrei che questo suonasse come una previsione infausta, ma piuttosto come un invito a non trascurarsi. Quindi se iniziate ad avvertire uno di questi disturbi, non aspettate che passi, occupatevene per non rischiare di trovarvi ad affrontare una situazione più complessa. Professore, possiamo dire così? Ma certamente, anzi di solito il primo segnale d'allarme della sofferenza dell'orecchio, diciamo, è molto molto generico, che può interessare tantissime patologie, soprattutto le più banali, è proprio un acufene, cioè questo rumorino che viene mandato. Lo potremmo definire una specie di equivalente al dolore per degli organi tipo la spalla o il ginocchio, ecco, nel senso, quando sentiamo un dolore pensiamo subito all'organo che ci fa male, quando sentiamo un acufene dobbiamo pensare che nella stessa maniera sta a indicare grosso modo che sta soffrendo il labirinto, cioè l'orecchio. Noi parleremo naturalmente anche di vertigini, per semplicità però affronteremo due disturbi separatamente, poi li faremo convergere in un secondo momento, e quindi per dipanare questo groviglio di sintomi, ebbene, come ha suggerito il professor Guidetti, iniziare a trattare quello da cui di solito poi è più frequente, originano gli altri disturbi. Quindi inizieremo a parlare di acufene, ma tratteremo anche le vertigini e i due disturbi insieme, che spesso si associano anche a quella fastidiosa sensazione di ovattamento. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde già attivo, iniziate pure a chiamare, come a scrivere i messaggi al 349 238 6666. Il professor Guidetti rimane a nostra disposizione, quindi possiamo approfittare di lui fino a mezzogiorno. Una mela al giorno. E oggi parliamo di occhi, perché diventano protagonisti del nostro spazio di cura e di benessere. Sono lo specchio dell'anima, questo lo sappiamo, ma ahimè spiattellano anche la nostra età anagrafica e a volte barano, perché ci aggiungono addirittura degli anni. Ma di questo parliamo oggi insieme alla dottoressa Riccarda Serri, dermatologa, presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Dottoressa Serri, buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno. Dottoressa Serri, a volte i nostri occhi barano perché ci aggiungono addirittura addirittura anni, e quello che invecchia il nostro sguardo sono le palpebre, che diventano un po' cadenti, poi si aggiungono le zampe di gallina e completano il quadro le borse e gli occhiaie. Insomma, dottoressa Serri, abbiamo bisogno di qualche suo aiuto per tirare su lo sguardo. Sì, Nicoletta, lei mi racconta di una devastazione. La buona nota è che se l'occhio comunque, pur contornato da una pelle che invecchia, da borse, da qualche zampa di gallina, è comunque vispo, allegro e curioso, lo sguardo giovane ringiovanisce l'occhio. Questo è da focalizzare. Assolutamente. Poi che cosa fare? Anche perché, dottoressa Serri, si vedono degli occhi ritoccati, e molto spesso le signore hanno un po' quello sguardo della persona attenta che non capisce, no? Ecco, per cui è meglio uno sguardo un po' vivo, anche se contornato da qualche ruga. Di questo, esatto, siamo assolutamente d'accordo. Però la palpebra cade, si può fare qualcosa oppure allora, si deve solo ricorrere al bisturi? Per le palpebre superiori e inferiori, che si chiamano anche borse, sì, c'è non tantissimo da fare. L'unico trattamento davvero efficace è la chirurgia. Si può prevenire, per esempio, fumando poco, addirittura smettendo di fumare, anche gli occhi migliorano molto. Okay. Incredibile, ma vero. L'eccesso addirittura di prodotti e di creme nella zona perioculare, cioè sulle palpebre superiori e inferiori, se creme troppo grasse e in quantità eccessiva, possono addirittura provocare dei gonfiori agli occhi, per cui bisogna stare molto attenti, usare dei prodotti adatti e mai troppo grassi nel contorno degli occhi. Si possono fare degli esercizi proprio dei massaggi intorno all'occhio, premendo leggermente col dito pollice proprio lungo l'arcata sopraccigliare inferiore, e questo aiuta a sgonfiare l'occhio quando ci applichiamo la crema. Sì. Mettere sempre occhiali da sole quando si va alla luce, perché gli occhi patiscono molto, la zona di cute molto sottile patisce molto gli effetti dei raggi ultravioletti. Sì. Per quanto riguarda le zampe di gallina, queste sono rughe allegre perché sono legate al sorriso, e in linea di massima si può notare che chi ha zampe di gallina accentuate ha poche borse sotto gli occhi e viceversa. Questo succede perché la meno male però, no? C'è un certo tipo di giustizia anche nell'invecchiamento. Sì. La contrazione data dalla muscolatura mimica, che poi porta alla formazione di zampe di gallina, questa stessa contrazione porta anche a uno svuotamento dei liquidi che si raccolgono invece nella borsa, nella palpebra inferiore. Chi non ha zampe di gallina ha minore contrazione in quella zona dove si formano le rughe. Certo. Ogni tanto, per rilassare l'occhio, bisogna guardare l'orizzonte, guardare un bosco, non guardare sempre schermi di computer, perché questi stancano l'occhio. L'occhio stanco invecchia prima. Quindi, dottoressa Serri, portiamo lo sguardo lontano, utilizziamo... Portiamo lo sguardo lontano. E poi ci si possono applicare dei cosmetici adatti. Se la crema che si usa per il viso non è una crema acida o irritante, va benissimo anche per il contorno degli occhi, mentre ne serve un'apposita se si applicano prodotti irritanti, per esempio a base di acido glicolico. Certo. Dottoressa, esatto, Serri, io la ringrazio molto per essere stata con noi. Prego. Vi do appuntamento per la prossima settimana. Buona giornata. Pronto soccorso. Acufeni, quindi diciamo suoni nell'orecchio, ma anche vertigini e sbandamento. Questo è il tema di oggi. Se soffrite di uno o più di questi disturbi, abbiamo detto che spesso non vengono da soli, fermatemi con noi e chiamateci all'800 24 00 24. In linea con noi abbiamo il professor Guidetti, ma in linea abbiamo anche Giorgio, che ci chiama dalla provincia di Venezia. Buongiorno Giorgio. Pronto, buongiorno. Eccoci. Niente. Dunque, il mio problema è sorto circa un mesetto fa, ho avuto un'influenza, raffreddore, passato tutto, fatto sta che ho cominciato a sentire, si metterà anche a ridere, le pulsazioni del cuore sull'orecchio. Praticamente io sento il flusso, nel silenzio logicamente della notte, il flusso del sangue che passa tipo eco Doppler, cioè con la sensazione che sembra proprio il flusso o il battito dei bambini quando si sì. fa... Boh. Sì. E questo si alterna a fischi, sì, o questo battito che fastidiosamente nel silenzio lo sento. Ho fatto una terapia antibiotica orale, una antibiotica per aerosol e delle goccine nell'orecchio, però sì, il timpanadrello, ma il problema ormai è circa un mesetto che lo porto con me e spero che passa, magari con la bella stagione, ma certo, non passa. Al momento non passa. Professor Guidetti, Giorgia ci dà lo spunto per parlare di quando andare dal medico, dell'importanza di non sottovalutare questi sintomi. E il medico, come prima battuta, se Giorgio venisse da lei che cosa farebbe? Dovrebbe escludere che dietro al problema di Giorgio non ci siano delle cause, dei problemi seri, giusto? Ah, certamente, la prima cosa comunque da fare in casi come questi è tranquillizzarsi, perché per esempio dato che c'è un rapporto stretto con un evento, diciamo così, infiammatorio, la cosa più probabile è che si tratti di una banale chiusura della tuba di Eustachio, cioè del canale che c'è fra naso e orecchio, che lascia questo senso un po' di ovattamento tipo raffreddore, poi permette di amplificare i suoni interni, diciamo, compreso appunto lo scorrere del sangue nell'arteria che corre vicino all'orecchio. Infatti Giorgio dice: sento il cuore che mi batte dentro l'orecchio, ecco. Di solito non vale la pena preoccuparsi molto se c'è un rapporto così. Invece è opportuno approfondire il discorso quando senza un evento precedente, traumatico, infiammatorio, all'improvviso compare un sintomo, ecco lì bisogna andarci in fondo, parlarne col medico e impostare un iter diagnostico. Quindi a Giorgio un messaggio assolutamente tranquillizzante, anche perché, come Giorgio ci ha raccontato, il problema è insorto dopo un raffreddore, un'infiammazione. Sì, sì, invece negli altri casi insomma bisogna cominciare a fare due chiacchiere col medico. Di solito bisogna stare tranquilli, perché teniamo presente che l'acufene è maledettamente interessante, perché tutte le persone ne parlano, perché ce n'è una percentuale altissima che ne soffre, però di per sé diciamo che nel 90% almeno dei casi non nasconde malattie né gravi né preoccupanti. Quindi da Giorgio solo isolato non è preoccupante. Quindi Giorgio può dire, diceva, speriamo che con la bella stagione passerà. Penso di sì. Andiamo invece a Verona, ci aspetta Claudio. Buongiorno Claudio. Buongiorno, sono Claudio da Verona. Allora, sono un po' emozionato, Ma no, Claudio, ma siamo allora, tutti un po' emozionati, poi passa subito. Ci racconti. Allora, 2 anni fa circa, no? Stavo mangiando così, parlando con confusione in un ristorante, mi sentivo ovattato, cominciavo a sentirmi ovattato, no? L'orecchio sinistro. Sì. Va bene, allora sono andato da visita a un otorino e mi ha visto un setto deviato dalla parte sinistra. Bene, mi ha consigliato l'intervento, io ci schiatto parecchio prima di intervenire, ho fatto l'intervento, l'ho fatto l'anno scorso. Sì. Va bene. Questo è peggiorato perché mi dà dei disturbi quando ad esempio batto la testa con la mano, no? Mi sento come un'anguria e mi vibra l'occhio facendo R, sì. Dai, quelle vocali lì, insomma, quelle parole lì, e mi sento anche io pulsazione nell'orecchio. E se abbasso la testa, abbasso la testa, mi passa quasi completamente. Ecco, volevo sentire un parere. Grazie Claudio. Professor Guidetti, Claudio lo lega ad un intervento. Insomma, la cosa più evidente in questo caso è che c'è almeno temporalmente un rapporto, che ci sia poi un rapporto di causa, bisogna vedere che tipo di situazione si è creato. È il classico caso dove ci vuole tanta tranquillità, mettersi lì, sembra anche un fatto meccanico, no? Nel senso che cambiando posizione cambia, insomma, non deve essere una cosa drammaticamente preoccupante, però bisogna avere proprio in questi casi tanta pazienza, mettersi lì, vedere l'orecchio, guardare le lastre, come si sfornire, cioè studiarlo bene, perché è molto fastidioso, anche se dietro probabilmente c'è una cosa così piccola che si farà anche fatica a documentare. Ecco, sono quelle cose molto fastidiose anche in questo caso, ma che probabilmente sono risolvibili con un po' d'attenzione. Professor Guidetti, noi abbiamo detto che escludere i problemi seri è il primo passo del medico quando arriva il paziente che avverte questi sibili, questi ronzii, soprattutto là dove non sono legate dai processi infiammatori oppure raffreddori trascurati e quant'altro. Però alcuni acufeni sono come inspiegabili, gli esami sono tutti a posto ma il fischio c'è. Però vorrei dire subito ai nostri amici da casa, professore, se lei mi aiuta, che ogni acufene ha diritto di essere ascoltato e trattato. Insomma, non accontentatevi di chi vi dice, sono tanti, si rassegni. Professor Guidetti. No, assolutamente no, ha ragione. Cioè, È vero che siamo nel 2009, non nel 3009, quindi abbiamo ancora dei grandi limiti di conoscenza della medicina, però per esempio rispetto al 1999 siamo molto più avanti e si spera che giorno per giorno, siccome ci sono equipe intere di audiologi che si occupano quotidianamente del problema, si possa sempre di più arrivare vicino alla soluzione di quasi tutti questi tipi di patologie e quindi vale la pena di sempre affrontarli sia da parte del medico che da parte del paziente, però sapendo che ci vuole un po' di pazienza, ecco, che non c'è l'acqua di Lourdes ancora in questo campo. Senta professore, diamo delle indicazioni agli ascoltatori che ci stanno già scrivendo. È diverso avvertire i suoni da entrambe le orecchie da uno solo? È possibile? Se io lo sento solamente di notte è più grave se lo sento anche durante il giorno? Diamo alcune indicazioni flash prima di inquadrare il problema vertigine. Sì, diamo due indicazioni flash. Se è da una parte sola è potenzialmente più preoccupante perché diciamo che può appartenere più facilmente a un certo tipo di malattia di cui poi magari parleremo dopo, che richiedono un'attenzione maggiore. Sì. Quando invece è bilaterale di solito è l'espressione di un problema generico come possono essere per esempio gli sbalzi di pressione, sì, una qualche difficoltà tipo non so il diabete, quindi una difficoltà di metabolismo, cioè delle malattie chiamiamole così di ordine generale, sì, più che non locale. Certo. Quindi ecco, sono meno preoccupanti quelli. Per quanto riguarda notte o giorno, è chiaro che più un soggetto è ansioso e più è nel silenzio e più è naturale che avverta questi rumori. Andiamo invece alle vertigini, inquadriamole. Le abbiamo dedicato delle intere puntate a questo problema. Se il mondo ruota o se ruotare siamo noi mentre lui sta fermo, qualcosa deve essere capitato, professore. E anche sì, qui una visita ci permette di stare tranquilli e di escludere soprattutto con certezza che dietro alla vertigine ci sia un problema più serio. Direi che le regole sono due. La sì, prima è: se il mondo mi gira intorno, sono quasi sicuro che è un problema dell'orecchio. Sì. Perciò non vale la pena che io impazzisca dalla paura, Dio chissà cosa mi sta succedendo, un ictus, un infarto, eccetera, eccetera, perché questa probabilità è veramente remota. Sì. Quindi cosa numero uno, mettersi calmi e tranquilli. Bene. Cosa numero due, parlarne col medico, affrontare il problema a livello diagnostico e quindi contemporaneamente prendere quei farmaci che servono per rallentare i sintomi e per rinforzare la struttura dell'orecchio. Due semplici suggerimenti che di solito permettono di non prendere quella china del terrore che purtroppo molto spesso accompagna questo tipo di malattia. Professore, abbiamo Franco che ci chiama dalla provincia di Lucca. Buongiorno Franco, benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua. Che succede? Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, sì, io circa un mese e mezzo fa mi sono divertito a tagliare un po' di legna con una sega circolare elettrica. Sì. E lì per lì non avevo una protezione a portata di mano, ma ho fatto come altre volte, ho tagliato senza protezione. Dopo circa un'oretta mi sono accorto che avevo del fastidio agli orecchi, sì, che è continuato la sera, il giorno dopo. Quindi ho chiesto un appuntamento con un otorino e l'appuntamento è stato dopo un mese. Quando sono andato mi hanno detto che chiaramente il nervo ne aveva sofferto e mi hanno fatto fare una protezione a base di cortisone e delle bustine, e ho visto c'era della ginkgo biloba come rimineralizzanti. Il fastidio rimane e la notte io sento, quando vado a letto sento come un fruscio, e durante il giorno un fastidio come un senso di ovattamento agli orecchi. Grazie Franco, tutto tagliando la legna, professor Guidetti. Di solito succede andando in discoteca, lui vede, è stato sfortunato. A parità di disturbo non si è divertito. Vabbè, comunque in linea di massima diciamo che le cellule dell'orecchio hanno intanto una memoria, in qualche modo, per cui quando ci esponiamo a lungo a dei rumori forti, per un po' li continuiamo a sentire, diciamo. Sì. È questo che succede ai ragazzi quando escono dalla discoteca, no? Che hanno queste sensazioni prolungate per qualche ora di rumore, di intorpidimento, eccetera. E poi il problema è se invece l'entità del trauma acustico, cioè proprio dell'impatto del suono inteso come forza fisica sulle cellule dell'orecchio, è stato significativo, è chiaro che le cellule rimangono o stordite, poi col tempo recuperano, o letteralmente danneggiate. La terapia che gli hanno dato era in funzione A, di cercare di rimuovere, chiamiamolo così, l'eventuale stordimento, e B, cercare di ridargli un po' di energia perché ripartissero. se non funziona purtroppo rientra in quella categoria dei pazienti che hanno avuto un trauma acustico, come quelli che lavorano abitualmente in ambiente rumoroso, e quindi diciamo che difficilmente potrà recuperare quel tipo di perdita che ha avuto, sperando che sia molto limitata, dato che non è stata né lunga l'esposizione né particolarmente violenta. Quindi a Franco, alle persone che avvertono disturbi simili a quelli di Franco dopo l'esposizione ad una fonte rumorosa molto intensa, è un po' di lasciare tempo alle celluline di riprendersi da questo stordimento, possiamo dire così? Sì, però nel frattempo non è male cominciare subito invece che aspettare a fare delle terapie, non so, con complessi vitaminici tipo la vitamina A, la vitamina E, gli antiossidanti in generale, che consentono, come dire, di dare un po' di energia a quelle povere cellule che hanno subito il danno. Un po' di tono. Fischi, ronzie, cascatelle, in una parola acufeni e vertigini. Se li conoscete per esperienza diretta, chiamateci, ne parliamo oggi col professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audio, vestibologia e rieducazione vestibolare dell'azienda USL di Modena. 824 0024 è il nostro numero verde per intervenire in diretta. Ma saluto anche il professor Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri, che è in linea con noi e a cui affidiamo il commento della notizia della settimana. Professor Remuzzi, buongiorno, bentornato. Grazie. Professore, l'influenza messicana ha lasciato le prime pagine dei quotidiani, ma la più prestigiosa rivista scientifica, il New England, le dedica addirittura un intero numero e credo a memoria non sia mai successo. Sì, non è mai successo. C'è tutto quello che si deve sapere sul virus, tutto quello che si sa perlomeno. Si sa che si tratta di un virus che origina dal combinarsi fra loro di altri virus dell'influenza, che ha una parentela stretta con il virus della pandemia del 18, la famosa spagnola. Il suo materiale genetico deriva da un virus del maiale, degli uccelli e dell'uomo. I ricercatori del Centro per il Controllo delle Malattie di Atlanta l'hanno chiamato SOIV, vuol dire virus dell'influenza che origina dai suini, sì, dai maiali, per indicare che questo virus origina dai maiali, ma non si diffonde tra questi animali. E nemmeno da questi animali all'uomo, semmai paradossalmente è l'uomo che può infettare il maiale, invece si diffonde abbastanza facilmente da uomo a uomo. È importante adesso chiederci come ha risposto la medicina a questa nuova emergenza di salute. In pochi giorni dalla segnalazione dei primi casi, i ricercatori hanno identificato la sequenza del gene del virus, l'hanno pubblicata su internet per consentire a tutti gli altri di confrontarlo con le loro e di studiare il virus. Sappiamo la sensibilità ai farmaci antivirali e abbiamo trovato due farmaci in cui c'è sensibilità, altri due no. Sappiamo quindi su cosa possiamo contare per battere il virus e si sono messi in atto tutte le misure possibili per ridurre la diffusione senza allarmare troppo. Rimane il problema del vaccino, l'industria si sta organizzando, si devono sviluppare ceppi di virus che servano alla produzione del vaccino e questo si farà nel giro di poco tempo. Poi ci sarà il problema se l'industria si butta sulla produzione del vaccino per questi virus, si potrebbe rimanere senza scorte per l'altro vaccino. Questo è un problema che le autorità stanno valutando. Comunque, intanto, professor Remuzzi, intanto queste, tra virgolette, prove generali, direi che le abbiamo superate brillantemente. Superate molto brillantemente. Io credo che la gente si stia avvicinando all'importanza della scienza attraverso queste cose che succedono e a quanto gli scienziati si stiano dando da fare per identificare in modo più rapidamente possibile le misure di diagnosi e di cura. Professor Remuzzi, io la ringrazio, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie. Grazie, grazie a voi. E noi torniamo ad occuparci del nostro equilibrio, parliamo infatti di vertigini anche del nostro udito, parliamo di acufeni, fischi, cascatelle, sibili, ronzii e di quella sensazione sgradevole di ovattamento, di sentirci un po' di meno che a volte accompagna questi sintomi. In linea con noi abbiamo il professor Guidetti, abbiamo anche Antonio che ci chiama dalla provincia di Milano, che saluto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Senta, io mi ero fermato perché stavo guidando, però adesso ho dovuto riprendere perché avete fatto pubblicità un po', ho detto intanto mi porto avanti perché purtroppo faccio consegne. Sì. Senta, io volevo darle un attimo il mio profilo. Io ho 30 anni, ho fatto un'otite catarrale tubarica destra. Ecco, dopo mi hanno fatto fare delle insufflazioni. Sì. Adesso alla soglia di dopo ho seguito il processo un po' sì, un po' no, perché ero sempre preso per il lavoro. Sì. sono arrivato a 50 anni, adesso sono da 55, è 5 anni che soffro di acufene. Alla sera, quando vado a letto, specialmente sento di più e sembra come quando c'è un tubo dell'aria che perde. Ecco, volevo sapere questo. Volevo sapere, primo, se la familiarità è una componente degli acufeni. Sì. Secondo, che cura potrei fare? O devo essere preoccupato che magari si nasconde qualcosa di serio sotto? Se quanto riguarda la familiarità, io non posso neanche accedere perché sono stato adottato. E quindi non sappiamo. Antonio, però è da 5 anni che convive con il suo acufene. È molto fastidioso, però, professor Guidetti, 5 anni è già un, no? Se ci fosse stato qualche cosa di grave, a questo punto questo è quasi sintomo, una garanzia. Mi dica. Solo questo sintomo non è molto preoccupante, nel senso che dietro difficilmente ci sarà una malattia grave. Si associa anche sordità, giramenti di testa, senza di orecchio chiuso, non mi pare il caso, ecco. Però se ci fossero questi sintomi bisognerebbe certamente preoccuparsi un po' di più. Così bisogna chiaramente affrontare il problema, come dicevamo prima, con calma, tranquillità, mettersi a sedere, guardare gli esami, cercare di ricostruire dove c'è dispersione, diciamo, lungo i circuiti dell'udito di questo signore, e cercare di vedere se c'è modo di rimediare. Se non c'è modo di rimediare, si cercheranno soluzioni alternative. Ecco, allora facciamo un po' un riepilogo di quello che oggi è a disposizione per chi soffre di acufeni. Abbiamo detto, il primo step è trovare la causa, abbiamo detto possibile, ma non è sempre la regola, anche se per fortuna a volte succede, no? Quindi ad esempio il nostro ascoltatore di prima che diceva mi sento l'orecchio, che poi il cuore che pulsa dentro l'orecchio, quell'ascoltatore che diceva ho avuto il raffreddore e poi è arrivato l'acufene, qua per voi è un campo abbastanza semplice. Sì, decisamente. Oppure se non riuscite a trovare la causa si può agire anche sul meccanismo che provoca questo danno, questo problema. Ad esempio, professore? Per esempio si può cercare di fare in modo di ridurre la percezione del suono andando a lavorare sulla trasmissione del suono stesso lungo i fili che portano i segnali al cervello, quindi con dei farmaci che tendono a grosso modo della famiglia dei sedativi, sì. Grosso modo. Oppure, per esempio, nel caso che ci sia una malattia come quella che abbiamo accennato tra le righe, cioè la malattia di Meniere, dove c'è, si sa che c'è un aumento dei liquidi nell'orecchio, ecco che si può cercare di abbassare il contenuto di liquidi nell'orecchio. Oppure, altri casi di pazienti che hanno malattie come il diabete o la pressione alta, dove devi cercare con i farmaci di agire sulla causa, se non riesci a proteggere anche l'orecchio da queste patologie, devi cercare di usare farmaci che proteggano i capillari di questi signori e le cellule di questi signori, e fare in modo che così, diciamo, l'organo bersaglio venga un po' preservato dal danno della patologia di ordine generale come il diabete, appunto, la pressione alta. Questi sono i tentativi che si possono fare, che spesso danno buoni frutti. Oppure cercate di in qualche modo di dire al cervello, di distogliere il cervello da questo specie di campanello d'allarme, di questo segnale che le cellule malate gli mandano. In pratica voi è come se diceste al cervello, insomma, pensa ad altro, oppure non fare diventare questo acufeno un chiodo fisso. Passate un po', in un certo senso, alla cabina di regia. Esattamente. Se proprio non riesci a fare niente altro, devi fare in modo che il soggetto non stia troppo concentrato sul suo rumore che sente, bisogna distoglierne l'attenzione sostituendolo per esempio con dei suoni piacevoli, oppure andando a utilizzare tecniche anche molto molto più complesse, diciamo così, di approccio psicologico, anche l'ipnosi qualche volta. È vero che è uscito un lavoro molto bello sull'ipnosi per il trattamento degli acufeni. Sì, è interessante questo fatto, perché l'idea è essenzialmente nata in Italia. Abbiamo avuto anche il collega che ne ha parlato qua in diretta, mi ricordo. Esattamente, il dottor De Caria che ne ha parlato. E abbiamo quindi questa idea, era venuta ed è stata già attuata più volte anche qui in Italia. Poi adesso è uscito su un giornale prestigioso di quelli stranieri che conferma che questa ipnosi per alcuni casi particolari è particolarmente valida nel trattare gli acufeni. Siamo sempre lì, cioè tutte le tecniche sono buone quando si adattano a quel tipo particolare di malato e ai suoi meccanismi. Certo. Un soggetto molto ansioso è chiaro che ha sempre l'amplificatore aperto. Un soggetto che ha una buona memoria traumatica, paradossale, ma insomma tiene in memoria bene questo segnale d'allarme, è chiaro che richiede un trattamento diverso per liberarsi da questa memoria traumatica, per esempio. Sono tutti approcci neuropsicologici che richiedono esperienza, no? Chiaro che non fa un medico di famiglia. Noi abbiamo in linea, proprio per farci raccontare in che cosa consiste il supporto psicologico, il professor Luciano Casolari, che è psicoterapeuta e professore di psicosomatica all'Università di Modena e Reggio Emilia. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei viene in aiuto alle persone che soffrono di acufeni e che con tutti gli esami a posto, quindi risvoltati come un calzino, alla fine si sentono dire dal medico non c'è nulla di serio, nulla di preoccupante, le abbiamo provate tutte, adesso lei cerchi in qualche modo di non pensare troppo all'acufene, insomma di pensare un pochino ad altro e forse anche di spegnere un po' quell'ansia che generalmente viene a tutti noi quando conviviamo con un disturbo di cui sappiamo che non c'è una causa seria a monte, che però insomma ci in qualche modo disturba la quotidianità. Professore, ma quando voi parlate di supporto psicologico, a che cosa fate riferimento? Prima bisogna fare un discorso un po' teorico. Il discorso teorico è che il sistema nervoso, quindi la centralina che deve controllare tutti gli input che arrivano da varie parti del corpo, secondo diverse teorie è fatto di diversi aspetti. Diciamo, per grossolanamente, c'è una teoria dei tre cervelli che dice che noi abbiamo un cervello primitivo, che è quello che porta le sensazioni, poi abbiamo un cervello affettivo, che è simile a quello dei mammiferi, e un cervello razionale, che è tipico dell'uomo. Allora, è chiaro che queste sensazioni che arrivano vengono poi fanno parte del cervello primitivo, quindi sono delle sensazioni e basta. Però poi vengono filtrate da un'altra parte del cervello, che è la parte affettiva, quindi che dà un'emozione a questa sensazione. Cioè, questo è stato ben studiato soprattutto nei dolori, dove lo stesso dolore, se viene associato a una determinata sensazione o a un'altra, ha un significato per il cervello e per l'individuo molto, molto diversa. Professore, facciamo un esempio. Sì, un esempio prima di andare alla viabilità, che così ci riflettiamo. L'esempio è? Sì, è un esempio di una persona che ha un dolore ai polpacci, ma se ho dolore al polpaccio perché ho fatto una corsa e volutamente ho questo dolore, sono contento perché mi sono allenato. Se invece mi viene e non so perché, sono invece ansioso. Ecco, questo. Chiarissimo. Siamo tornati insieme, stavamo parlando di supporto psicologico per le persone che soffrono di acufeni e sentono anche quindi questa sensazione così invalidante che aumenta l'ansia, ma continuiamo a parlarne, ma diamo voce anche a Carmen che ci chiama da Roma. Buongiorno Carmen. Buongiorno, io chiamo da Roma, come ha detto lei. Senta, io vorrei domandare al dottore che qualche giorno fa, più o meno 20 giorni fa, ha cominciato un mal di testa, dopo 5 giorni ho cominciato a dondolare. Sono finita al pronto soccorso, purtroppo per altri motivi non mi ho recuperato. Sono andata dall'otorino, mi ha fatto l'audiometria e non so che cosa ha capito lì. Mi ha dato un medicinale, non so se le posso dire che tipo di medicinale mi ha dato. Sì. Mi ha dato il Torecan. Sì. E l'ho fatto, un po' è passato, ho continuato a dondolare molto di meno, adesso è passato completamente, però qualche giorno fa ho mosso la testa un po' violentamente e questo è ricominciato. Il dolore adesso si è spostato dietro l'orecchio della parte destra, diciamo fra il collo e la testa, e ci sento sempre, c'è un po' di bruciore dentro l'udito e anche questo vuotamento così. Ecco, quindi un quadro un pochino più complesso. Professor Guidetti, coinvolgiamo anche il professor Casolari. Professor Guidetti, che cosa ci descrive Carmen? Carmen descrive i sintomi di, diciamo, Sicuramente una compromissione anche dell'apparato dell'udito e dell'equilibrio associati, che è stata trattata con un sintomatico e quindi come tale non può guarire da sola. Sì. Può solo limitare la sensazione del disturbo, ma certo bisogna andare a scoprire qual è il disturbo e trattarla. Ecco, poi è legata alla cefalea, il rapporto fra vertigine e cefalea è molto complesso, non possiamo affrontarlo in questo momento in maniera banale, diciamo che delle volte sono espressione di una stessa malattia, altre volte sono una conseguente all'altra, è comunque da approfondire, perché due sintomi di cui uno appunto è il mal di testa richiedono un attimo di attenzione. Ecco, di più. Questo serve anche i nostri ascoltatori, raccontandoci le loro storie, danno modo ai nostri esperti anche di sottolineare quali sono i sintomi che devono invece essere approfonditi. Professor Casolari, tornando al nostro supporto psicologico, abbiamo capito questa perché si può essere efficace, ma in pratica che in che cosa consiste? Colloqui? Che cosa allora, fate? Sì, certamente non vanno individuate delle psicoterapie, quindi non stiamo parlando di una malattia psichiatrica e neanche una malattia che abbia bisogno di un supporto psicoterapico a lungo termine. Si parla di un counseling psicologico, cioè alcune due o tre sedute in cui si fa una valutazione della situazione della persona. Il primo elemento da fare è capire se questo evento, questo acufene ad esempio, si è inserito in un momento di tensione della persona. Sì. Ad esempio, facciamo un caso che mi è capitato recentemente, una signora che aveva 49 anni, che aveva un acufene che era molto fastidioso da 2 o 3 mesi, però questo per lei aveva il significato simbolico di dire adesso sto invecchiando, sto avvicinandomi alla menopausa, cioè c'era un significato simbolico che era emerso accanto al sintomo. Sì. E quindi quel sintomo, che casomai era un sintomo affrontabile da un altro punto di vista, però diventava ancora più problematico per lei proprio perché assumeva questo significato simbolico. Quindi il primo elemento è valutare questi aspetti. Sì. Poi, una volta valutato e eventualmente sviscerato questi problemi di natura simbolica che possono collegarsi al sintomo, è quello di fare di utilizzare delle tecniche che vadano a stimolare ad esempio l'attenzione selettiva, e quindi ci sono alcune tecniche in cui si va a indicare al soggetto come stimolare la sua attenzione su altri aspetti della sua vita e non sull'aspetto fisico, poi stimolare l'immaginazione, perché anche l'immaginazione, la fantasia e la ricollocazione emotiva del sintomo. Quindi questi sono gli elementi che vanno attuati e che vengono fatti di solito nell'arco di 2 o 3 sedute. In cui poi la persona deve fare questi esercizi a casa. Sì. Perché, insomma, reimpostate un po' il paziente. Sì, io quello che dico alle persone è questo, un po' loro devono imparare a utilizzare questa sensazione che loro avvertono, perché l'acufene viene avvertito in modo diverso da come lo stanno utilizzando fino a quel momento. Certo. Perché è un po' come l'acufene è un po' come la spia dell'automobile, no? Che si accende e che significa qualche cosa. È chiaro che se a un certo punto io ho sviscerato il significato e ho capito che se si è accesa e basta e che non c'è possibilità di spegnerla, bisogna che mi abitui, mi attrezzi a conviverla, a con questa spia, perché se io tutte le volte che entro in automobile accendo l'auto e vedo questa spia mi arrabbio perché c'è questa cosa che mi dà fastidio, è evidente che il riverbero emotivo accentua ancora di più il problema. Allora, noi dobbiamo salutare i nostri esperti, dobbiamo chiudere la puntata, dedicheremo alla sindrome di Menier un'intera trasmissione tra poco, per cui professor Guidetti, la inviterò presto, ci dica solamente quali sono, anche in questo proprio abbiamo 30 secondi per tempo, è una sindrome, come dice la parola, un po' complessa, dove ci sono sintomi uditivi e dell'equilibrio insieme. Sì, diciamo una cosa rapidissima sulla malattia di Menier, che forse mette insieme anche quello che abbiamo detto fino adesso. Sì. È una malattia umana e questo significa che gli animali non ce l'hanno. Sì. Questo significa che la componente emozionale umana è molto importante nella patologia. Sì. E purtroppo è una malattia che una volta che si è instaurata dà delle vertigini ricorrenti, un calo dell'udito e un fischio costante, che richiama continuamente l'attenzione, quindi abbiamo l'attenzione del povero malato sul fischio che lo martella, abbiamo la paura continua che la patologia ridia delle crisi e quindi una situazione molto difficile dal punto di vista emozionale, ed è per questo motivo soprattutto che sono pazienti difficili da gestire e che però questa è la parte brutta del discorso, sì. La parte bella è che i 10 secondi è che secondo me possiamo dire tranquillamente che in un modo o in un altro, cioè più o meno a tecniche invasive, si arriva a risolvere certamente il problema delle vertigini. Magari quello dell'acufene. Non tanto, ma questa è già una buona notizia. Di Meynier parleremo in una prossima puntata. E per ora ringraziamo il professor Guidetti e il professor Casolari. Grazie, io volo, a domani dopo il GR delle 11.